Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa Italia in controluce del 19 di settembre, il ritorno di Forza Italia, ormai ufficiale. Lo aveva già anticipato Berlusconi nel corso dell'estate, ma ieri nel videomessaggio che poi sentiremo tutto questo diventa assolutamente ufficiale. È il progetto politico fondato da Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri nel 1993, nell'ottobre del 1993, che pochi mesi dopo, nel marzo del 1994, vinse le elezioni con l'appoggio della Lega e del partito di Fini. Dopo c'era anche Casini a quel tempo per quanto riguarda i centristi, quindi era una grande coalizione in cui Forza Italia era certamente lo snodo più importante. Dopo il voto della Giunta per le elezioni del Senato, Berlusconi pensa dunque ad una nuova alleanza di destra per battere le sinistre. Vi chiediamo, ma lo chiediamo soprattutto agli elettori del centrodestra, quelli che hanno votato in tutti questi anni, sappiamo che sono molti gli ascoltatori di Radio 24, Berlusconi o comunque il centrodestra in tutte le sue forme, da Forza Italia al Popolo della Libertà. Vi chiediamo se è proprio Forza Italia il progetto che chiedono oggi gli elettori di centrodestra per battere le sinistre, oppure, come qualcuno dice, bisogna andare oltre Berlusconi, oltre a Forza Italia. Altri invece, altri politologi pensano invece che non c'è un'alternativa nel centrodestra a Berlusconi. Allora, cominciamo subito. Prima un saluto a Vincenzo Miglietta, che è collegato da Roma. Buongiorno, buon pomeriggio Vincenzo Miglietta. Sì, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Allora, gli sms degli ascoltatori al 349-238-6666. Vi chiediamo dunque se è dunque questo, Forza Italia, il progetto che chiedono gli elettori di centrodestra. Ci servono soprattutto i pareri di quelli che hanno votato centrodestra fino adesso, non tanto le persone che invece hanno votato altro. Cominciamo a sentire Berlusconi in alcune fasi del videomessaggio di ieri, durato 16 minuti. Dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere definitiva, come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti, nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in Europa. E questo era Berlusconi sulla parte della Cassazione. Intanto arrivano i primi sms, 349-238-6666. Antonio da Pescara dice che Berlusconi e Antonio Martino idearono Forza Italia, è vero, ma il braccio operativo, il braccio che costruì la macchina, la vera macchina di Forza Italia, si chiamava allora Marcello Dell'Utri, ed era lui che aveva realizzato, praticamente costruito, dalla rete di 20 di Publi Italia ad un partito vero e proprio. Quindi andatevi anche a vedere un po' la storia, a leggerla se non la conoscete. Non esiste più destra e sinistra, esiste solo chi vuole andare là in cambio dell'onore per aver amministrato bene, chi va solo per arricchirsi, dice Fabio da Brescia. Io credo in Forza Italia, scrive un ascoltatore che però non firma. Minestre riscaldate o canto del cigno, si chiede Andrea da Imperia. Vogliamo soprattutto le idee di chi ha votato centrodestra in tutti questi anni. Non capisco cosa cambia per Berlusconi, Forza Italia o PDL. David da Pordenone. Sentiamo invece l'attacco di Berlusconi alla magistratura. Si è trasformata da ordine dello Stato, costituito da impiegati pubblici non eletti, in un potere dello Stato, anzi in un contropotere in grado di condizionare il potere legislativo e il potere esecutivo, e si è data come missione quella è una loro dichiarazione di realizzare la via giudiziaria al socialismo. E poi c'è la parte sulla democrazia dimezzata. Siamo diventati un paese in cui non vi è più la certezza del diritto. Siamo diventati una democrazia dimezzata, alla mercé di una magistratura politicizzata, una magistratura che, unica tra le magistrature dei paesi civili, gode di una totale irresponsabilità, di una totale immunità. Qui c'è un po' di tutto al 349-238-6666, il centrodestra deve spersonalizzarsi finché c'è Berlusconi, questo è impossibile, Forza Italia non farà la differenza, dice Giuseppe, siamo stufi di progetti che sono più o meno tutti uguali, Claudio da Trento, ma c'è per esempio Nunzio che dice più lo perseguitano più lo voterò. Allora, Vincenzo Miglietta, quali sono le reazioni a questa idea politica di ritornare al passato da Forza Italia? Ma reazioni se prese nel gruppo storico del Popolo della Libertà ex Forza Italia sono tutte reazioni molto molto positive. Ricordiamo quella dell'attuale segretario del PDL Alfano che conferma oggi ci incontreremo con Berlusconi. Berlusconi è tornato circa mezz'ora fa a Roma, non tornava dalla fine di agosto, quindi grande soddisfazione da parte di Alfano per questo progetto che riparte. L'altra sera lo stesso Alfano, ospite di Vespa Porta a Porta, aveva parlato di una nuova alba, di un nuovo sole per la politica italiana. Stesso discorso per i fedelissimi del Cavaliere Schifani, capogruppo del Senato, che giudica molto positivamente questa scelta di Berlusconi. Logicamente vi sono, Daniele, maggiori malumori sulla parte che entrò nel PDL proveniente da Alleanza Nazionale, perché è una parte che si troverebbe senza un punto di riferimento, un po' orfana di una tradizione di destra che probabilmente potrebbe non ritrovare nell'ambito della nuova Forza Italia. Ma come chiedevi tu ai nostri ascoltatori, non so come potrebbero schierarsi gli elettori del centrodestra, ma sicuramente in Forza Italia ci crede Silvio Berlusconi, che questo pomeriggio inaugurerà qui vicino a Montecitorio, a Piazza in Lucina, la nuova sede di Forza Italia, e sicuramente si lascerà andare ad un bagno di folla, Daniele, dopo l'atteso videomessaggio di ieri. Bene, grazie, sentiremo ancora le parole di Berlusconi anche questa sera, grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto continuano ad arrivare gli sms, sono veramente decine, anzi ormai centinaia, 349-238-6666, la nostra domanda è soprattutto rivolta agli elettori del centrodestra, sono loro oggi che vogliamo capire se questo progetto è un progetto che gli piace, Forza Italia, ritorno in Forza Italia, è il progetto che chiedono gli elettori di centrodestra. C'è fare Michele Boldrini nuovo centrodestra, scrive Lorenzo da Padova. Luisa da Ferrara dice voterai ancora a destra ma con altri candidati. Voterò e voterò sempre il Cavaliere, perché è vero che la magistratura è troppo politicizzata. Questo lo scrive è comunista. Vediamo Ilva da Ilva Matè. Io so soltanto che ci siamo impoveriti, scrive Angelo. Daniela dice eliminare un avversario tramite la giustizia è il massimo della debolezza di un partito. Probabilmente si riferisce al PD. Berlusconi deve rinunciare al leaderismo, allearsi con il centro per permettere la nascita di un nuovo soggetto popolare, di un soggetto popolare nuovo, scrive Marzio. Vediamo ancora al messaggio di ieri sulla parte economica, parla Berlusconi. Siete certamente consapevoli che siamo precipitati in una crisi economica senza precedenti, in una depressione che uccide le aziende, che toglie lavoro ai giovani, che angoscia i genitori, che minaccia il nostro benessere il nostro futuro. Il peso dello Stato, delle tasse, della spesa pubblica è eccessivo. Occorre imboccare la strada maestra del liberalismo che, quando è stata percorsa, ha sempre prodotto risultati positivi in tutti i paesi dell'Occidente. Qual è questa strada? Meno Stato, meno spesa pubblica, meno tasse. Con la sinistra al potere il programma sarebbe invece, come sempre, altre tasse, una imposta patrimoniale sui nostri risparmi, un costo più elevato dello Stato e di tutti i servizi pubblici. Alberto scrive: Forza Italia spopolerà, ma se cambieranno le facce. In alternativa alla strada in discesa per Renzi e per Grillo, scrive Alberto. Ho votato centrodestra da sempre, ma piuttosto la destra vera è finita con il congresso di Fiuggi. Il problema a questo punto, scrive Paolo da Trieste, non è destra e sinistra, ma è Berlusconi stesso. Non può più tornare indietro. C'è chi spera nell'arrivo di Marina Berlusconi. Daniele da Verona, c'è chi, come Stefano, dice le parole di Berlusconi sono sacrosante. La magistratura, con la magistratura democratica, oggi si occupa di lui, un domani attuerà la stessa politica con chi si opporrà. Non ho mai votato, ma avrà il mio voto Forza Italia, non sarà Berlusconi, ma sarà Berlusconi, sarà l'Italia che si oppone a questi sfaceli. È veramente tutto, torniamo domani con le vostre opinioni, con il racconto sul Fatto del Giorno, da Daniele Biacchesi, 13:30 domani.